strade e motori di Massimo De Donato. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. E in apertura ci occupiamo di saloni, ultime battute per il Motor Show a Bruxelles, dove Renault ha colto l'occasione per presentare le versioni elettrificate dei suoi due modelli di punta, la Clio e la Captur E-Tech. Un percorso green, quello della casa francese, iniziato 10 anni fa, che compirà un altro passo anche con il prossimo lancio di Megane E-Tech Plug-in Hybrid. L'obiettivo è quello di proporre entro il 2022 8 modelli ad alimentazione completamente elettrica e 12 modelli ibridi o ibridi plug-in. E c'è un altro salone che ha chiuso i battenti qualche giorno fa, il Consumer Electronics Show di Las Vegas, un altro appuntamento dove il mondo dell'auto è sempre più protagonista. Tante le novità, cominciamo da quelle in casa Enel X, novità particolarmente importanti perché si tratta di ricaricare le sedie a rotelle utilizzando le infrastrutture di ricarica per le auto. Enel X, in collaborazione con una startup, ha infatti presentato a Las Vegas una nuova tecnologia Juice Ability in grado di supportare la mobilità dei disabili. Attraverso un cavo intelligente, una app, il sistema consente di riconoscere le batterie delle sedie a rotelle elettriche e di connetterle al sistema di stazione di ricarica dei veicoli. Si mettono così a disposizione delle persone con disabilità oltre 11.000 stazioni con l'intento di rendere la loro mobilità indipendente almeno dai limiti di autonomia delle batterie. E ancora qualche novità che arriva da Las Vegas, un po' più proiettata verso il futuro. Hyundai e Uber hanno presentato il loro accordo per realizzare e mettere in circolazione i taxi volanti. Alla casa automobilistica di Seoul, che già nel 2018 aveva stanziato oltre 1 miliardo di euro per la mobilità aerea urbana, sarà affidata la produzione e la distribuzione dei veicoli volanti, mentre Uber, che lavora ai taxi del cielo dal 2016, fornirà i servizi per la prenotazione dei viaggi. E dai taxi volanti passiamo ai motocicli, trasferiamoci però in Italia, dove per il terzo anno consecutivo il Ministero dei Trasporti ha confermato lo sconto sui pedaggi autostradali. Ascoltiamo la scheda. È stata prorogata anche per il 2020 la riduzione del 30% dei pedaggi su tutte le tratte autostradali nazionali per i motocicli con targa titolari di Telepass. È quanto comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in una nota che precisa come grazie all'accordo con Aiscat la modulazione tarifaria scontata del 30% è attiva retroattivamente dal 1 gennaio 2020 e sarà valida fino al 31 dicembre. Lo sconto varrà per tutti gli utenti che hanno già aderito in precedenza all'iniziativa, la quale continuerà ad essere attuata con le stesse modalità degli scorsi anni. La misura è ovviamente riferita ai soli motoveicoli ammessi alla circolazione in autostrada che utilizzino lo specifico sistema di telepedaggio solo per il veicolo a 2 ruote. La modulazione non è cumulabile con altre facilitazioni, quali per esempio lo sconto pendolari. E cambiamo decisamente argomento, occupiamoci di mercato, questo perché negli ultimi giorni di questa settimana sono arrivati i dati finali del 2019, non solo per il mercato italiano ma anche per quello europeo, e per fortuna per il mondo dell'auto la situazione è nettamente cambiata rispetto ai primi mesi del 2019. Gli ultimi mesi, in particolare lo stesso mese di dicembre, hanno visto degli incrementi importanti nelle vendite, addirittura a 2 cifre in Italia, cosa che ha consentito il recupero di un po' di numeri e un po' di gap rispetto anche alle vendite del 2018, arrivando a chiudere l'anno, il 2019, con un sostanziale pareggio. Di questo mercato, ma soprattutto delle aspettative per il 2020, parliamo in compagnia di Gianmarco Giorda, che è il direttore di Anfia. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, buonasera a tutti. Allora, cominciamo con l'analisi di questo mese di dicembre, che è stato sicuramente eccezionale per il mondo dell'auto. Sì, direi di sì, ha avuto in effetti un incremento significativo. Il mese di dicembre del 2019 è stato un mese particolare perché sono stati sostanzialmente messi sul mercato anche una serie di veicoli e autovetture di cilindrata un po' più grande che emettono più CO2, anche nell'ottica di iniziare poi il 2020 cercando di vendere invece dei modelli di segmenti, diciamo, che hanno un impatto sulla CO2 più significativa, visto che nel 2020 entrerà in vigore il regolamento che prevede appunto la riduzione della CO2 a 95 grammi. Per cui il mese di dicembre ha un pochettino drogato l'andamento del 2019, che senza quel balzo dell'ultimo mese forse sarebbe stato con qualche punto negativo. Certo, e invece siamo arrivati in sostanziale pareggio, che è un po' quello che è successo anche in Europa. Sono arrivati in questi ultimi giorni anche i dati europei. Sì, diciamo c'è stato un lieve incremento, un più 1,2% a livello sempre di mercato europeo, anche in questo caso un dicembre molto robusto per le stesse motivazioni che ho citato prima per l'Italia. Forse può essere utile ricordare che all'interno dei 5 principali mercati europei gli andamenti sono stati diversi, perché mentre abbiamo avuto un incremento sulla Germania di un 5% e sulla Francia di un 2%, assistiamo invece a un calo abbastanza significativo in Spagna, un 5% in meno delle vendite, e anche in UK e in Regno Unito, anche per il fatto dell'incertezza della certo vendita. E lì c'è una giustificazione, ma in Spagna invece perché, secondo lei? Ma secondo me la Spagna è cresciuta molto negli ultimi anni, per cui dal 14 al 18 ha avuto un incremento significativo, e probabilmente in Spagna si vedono già in maniera più evidente rispetto ad altri mercati alcuni segni anche di una crisi, una recessione che forse arriverà anche negli altri paesi nei prossimi 2-3 anni. Veniamo al 2020 con questa stretta sulle emissioni di CO2. Tra l'altro usciamo da una settimana particolarmente pesante per il mondo automobilistico, con i blocchi della circolazione in buona parte d'Italia, anche a Roma in maniera pesantissima, con gli Euro 6 diesel addirittura, ma di questo parleremo in maniera più approfondita nella seconda parte di questa trasmissione. Dicevo, veniamo in Italia con questo 2020, quali sono le aspettative? Ma noi vediamo un 2020 sostanzialmente in linea col 19, può esserci forse qualche punto di calo, però direi che lo vediamo abbastanza in linea con l'anno precedente. Quello che è necessario fare, qui magari mi allaccio anche alla domanda che forse mi avresti voluto fare dopo, è sicuramente lavorare per far sì che nei prossimi mesi ci sia una diffusione maggiore di auto ad alimentazione alternativa, proprio perché le case auto hanno bisogno di mettere sul mercato e vendere prodotti in grado di raggiungere i target a CO2, che ricordo essere a 95 grammi al 2021. Per cui il mix probabilmente di alimentazioni cambierà nei prossimi mesi, con un forte focus appunto su auto elettrificate. Ecco, a questo proposito abbiamo visto che quasi tutte le case costruttrici stanno lanciando svariati modelli elettrificati, totalmente elettrici, ma quale sarà il mercato per queste vetture, le full electric, secondo lei? Allora, l'industria dell'automotive sta facendo la sua parte, nel senso che, come dicevi tu, giustamente sta mettendo sul mercato una line-up di prodotti elettrificati, direi robusta. Quasi tutte le case auto ormai hanno parecchi modelli comunque su questa tecnologia. È importante però che queste autovetture vengano vendute, non basta chiaramente certo metterle sul mercato, e per essere vendute c'è bisogno, e lo diciamo da tempo, di un ecosistema, di una serie di condizioni che favoriscano appunto la diffusione di queste alimentazioni. In primis un sistema di incentivazione appunto all'auto elettrica che sia più forte rispetto al bonus attuale. Noi infatti abbiamo chiesto che nel corso del 2020-21 venisse aumentata la dotazione, perché riteniamo che i 70 milioni di euro per il 2020 e per il 2021 non siano sufficienti ad alimentare in maniera corretta questo flusso certo di auto che dovrà esserci sul mercato. Seconda cosa, lavorare molto sulle infrastrutture, non solo la parte pubblica ma anche le infrastrutture private. Abbiamo anche in questo caso proposto al governo, al tavolo automotive, delle misure anche per favorire le infrastrutture per la parte residenziale. E chissà se l'auto elettrica nel 2020 riuscirà almeno in parte a risolvere i pesantissimi problemi di inquinamento che soffre il paese e che hanno portato questa settimana davvero ad una selva di divieti all'interno dei comuni, i più pesanti a Roma, con addirittura il divieto per tutti i diesel, compresi gli Euro 6. Ne parleremo tra poco nella seconda parte di Strade e Motori. Radio 24 arricchisce i suoi contenuti con un'offerta on demand che sentirete in esclusiva solo in podcast. Vai su radio24.it nella sezione Scelti per voi per scoprire ogni settimana quali saranno i lavori di domani, come orientarsi nella scelta della scuola per i figli, ascoltare come sono nati i più grandi successi della musica italiana, conoscere nuovi luoghi attraverso le storie di chi li ha vissuti. Radio24.it, un nuovo modo di vivere la radio. Con le voci, le interviste e le storie più interessanti da ascoltare, da qualsiasi device, in qualsiasi momento. Radio 24. La passione si sente anche in podcast. Strade e motori. Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato, e come vi avevo anticipato anche nel corso del precedente appuntamento, dedichiamo questo spazio all'emergenza smog, l'emergenza inquinamento che ha segnato pesantemente questa settimana in molte grandi città, Roma, Milano, ma anche in tantissime città di provincia, soprattutto della pianura padana, un'emergenza che è stata affrontata in diversi modi a seconda delle città. Ascoltiamo la scheda. Quella appena conclusa è stata una settimana all'insegna dell'emergenza. A causa dell'allerta smog al centro-nord, con altissimi picchi di PM10 nell'aria, i blocchi alla circolazione stradale hanno coinvolto diverse città, da Milano a Roma, e riguardato veicoli diesel anche con classificazioni euro elevate. È proprio la capitale a registrare i dati più preoccupanti, con 8 centraline su 13 che sforano il limite giornaliero di polveri sottili previsto dalla legge, e con la previsione del blocco mezzi fino a Euro 6. A Milano è scattato lo stop per i veicoli diesel trasporto persone fino a Euro 4 e per i mezzi di trasporto merci fino a Euro 3 anche nel weekend, mentre a Torino continua il blocco dei veicoli fino a Euro 5. L'emergenza prosegue in Veneto, con allarme rosso a Treviso e Vicenza e interdizione alle auto fino a Euro 4. Anche Firenze e provincia coinvolte, con una nuova ordinanza che stabilisce il blocco dei mezzi più inquinanti almeno fino a questo weekend. Amministratori preoccupati e polemiche sui blocchi hanno tenuto banco in questi giorni particolarmente difficili per la vivibilità cittadina. Bene, rientriamo in studio e allora un'emergenza pesantissima che ha avuto anche delle conseguenze importanti per lo stesso commercio. Vi leggo solo un'agenzia di qualche ora fa di Confartigianato: 5 milioni il danno diretto causato alle imprese artigiane e commerciali per il blocco dei veicoli diesel nella cosiddetta fascia verde. Stiamo parlando di Roma e stiamo parlando di traffico commerciale. C'è però un danno molto più importante causato da alcuni provvedimenti, come quello, l'avete capito, stiamo parlando del Comune di Roma, che ha addirittura bloccato i diesel Euro 6 di ultimissima generazione, con anche alcuni episodi imbarazzanti di alcuni clienti, addirittura di concessionari, che non hanno potuto a Roma ritirare la loro auto perché c'era il blocco della circolazione. Di tutto questo parliamo questa sera in compagnia del nostro ospite, che è Andrea Cardinali, direttore generale di UNRAE. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera, grazie a voi. Allora, voi avete addirittura scelto un'opzione estrema, avete acquistato un'intera pagina dei quotidiani ieri per denunciare l'infondatezza di questo provvedimento, addirittura il blocco degli Euro 6, l'Euro 6 diesel, che è considerato uno dei veicoli meno inquinanti al mondo. Sì, purtroppo siamo stati costretti ad alzare la voce, perché comprare una pagina di giornale è l'equivalente tecnico di alzare la voce. Purtroppo non abbiamo un interlocutore, perché noi da anni chiediamo di essere ricevuti a un tavolo nel quale si possa discutere seriamente, concretamente, su basi scientifiche di queste misure per la limitazione della circolazione. Lei ha usato un aggettivo che è imbarazzante, e devo dire che è l'aggettivo più, come dire, più soft che si può usare al riguardo. In realtà noi abbiamo titolato assurdo, perché una iniziativa del genere non ha precedenti. Non ha precedenti in un giorno lavorativo, perché non è una domenica ecologica, è stato bloccato il funzionamento vitale della capitale d'Italia. Ma non ha precedenti nella logica, perché il problema è molto ben noto nel bacino padano. Sappiamo tutti che il numero, certo, di sforamenti dei limiti del PM10 nell'arco di un anno non deve superare le 35 giornate. Roma è meno avvezza a queste situazioni, ma questo non giustifica. Ed era forse anche meno preparata ad un provvedimento così drastico. Beh, soprattutto emanato alle ore 17 per il mattino successivo, è una cosa che non ha veramente, non ha una logica scientifica, non ha neanche una giustificazione pratica, perché poi il risultato concreto di queste iniziative è nullo. Cioè il PM10 dopo 3 giorni di blocco stanno continuando ad aumentare, e comunque il discorso dell'Euro 6 diesel è una... diciamo che stiamo valutando anche il profilo legale di questa di questo discorso. Anche perché, come dicevamo, oltre ad un impatto su chi deve lavorare, e mi riferisco per esempio alla notizia che abbiamo dato in apertura della seconda parte del danno per le imprese commerciali, ricordiamo gran parte dei veicoli commerciali sono diesel, moltissimi sono addirittura Euro 6 di ultimissima generazione acquistati proprio per consentire l'ingresso nelle ZTL, e questo a questo punto spiazza completamente anche il mercato una decisione del genere. Spiazza il mercato, spiazza i consumatori, è una discriminazione ingiustificabile. Si viola il principio di neutralità tecnologica in nome di cosa? Di una battaglia assolutamente ideologica e ingiustificata contro il diesel, il gasolio, che è diventato il nemico pubblico numero uno, quando tutti gli studi scientifici, e non lo dice l'Associazione dei Costruttori di Automobili, lo dice il CNR, quindi penso che più indipendenti di loro sia difficile immaginarne, e hanno delle emissioni che sono assolutamente irrisorie, sia in termini di particolato che di ossidi di azoto. Paradossalmente si lasciano circolare in totale libertà gli Euro 3 benzina, che sono vetture, molto più inquinanti di 20 anni fa, che mettono 10 volte più ossidi di azoto, oltretutto li emettevano quando sono state omologate, chissà quanto emettono oggi dopo 20 anni, bruciano olio, eppure circolano liberamente, sono 160.000 veicoli soltanto nell'area di Roma. Ecco, lei ha parlato più volte di basi scientifiche, ma allora quali sono le basi su cui sono stati costruiti questi provvedimenti secondo lei? Mi rendo conto, lei non è il comune di Roma, quindi no, non guardi, faccio veramente fatica a rispondere a una domanda del genere. Ho letto le FAQ, le cosiddette Frequently Asked Questions, sul sito del comune, ma si può opinare assolutamente tutto. La verità vera è che sono veicoli perfettamente conformi ai limiti di legge, sono in commercio, io oggi li posso acquistare e poi, uscito dalla concessionaria, non li posso guidare, come se io le vendessi una lampadina e poi le impedissi di accenderla. È una cosa che non ha, le dico, Torino, Milano, cose del genere non le hanno mai neanche minimamente ipotizzate, quindi farle a Roma, che peraltro soffre di problemi in termini di infrastrutture, trasporto pubblico locale, che sono decisamente più seri e più gravi delle città del nord, è una cosa che non ha senso. Certo. Tutto questo perché siamo sempre a parlare di provvedimenti emergenziali, cioè il problema non è che non esista. C'è la concentrazione che supera i 50 microgrammi al metro cubo, ma questa non è la soluzione. Certo, dicevamo, è un'emergenza che ha caratterizzato questa settimana, speriamo nel brutto tempo, a questo punto tra virgolette la prossima, per cercare di risollevare un po' le sorti della situazione, ha caratterizzato un po' tutta Italia. I comuni però arrivano ad affrontare queste tematiche sempre con dei provvedimenti misti, ognuno fa un po' come gli pare, non c'è una linea comune, che forse in questo momento sarebbe importante per affrontare un problema che però è comune. Non c'è una linea comune, noi la chiamiamo normalmente balcanizzazione, perché ogni 20 chilometri in Italia ti sposti cambiano le regole diciamo sul fronte degli incentivi, sul fronte delle limitazioni, su qualunque aspetto non c'è un coordinamento nazionale. Noi in questa pagina che abbiamo comprato abbiamo chiesto per l'ennesima volta un tavolo di coordinamento permanente fra tutte le istituzioni competenti in materia. C'è da dire che almeno al nord le regioni che hanno competenza in materia di ambiente hanno messo in pista da un paio d'anni a questa parte dei piani di incentivazione per risolvere il vero problema, che è un parco circolante vetusto e inquinante, problema che non si risolve bloccandone la circolazione, ma si risolve incentivandone lo svecchiamento. Bene, 15 novembre 2018 il Ministero dell'Ambiente firmò un accordo con la Regione Lazio proprio per stanziare, mi sembra di ricordare, qualche 4-5 milioni a questa finalità, non si è visto nulla, e quindi il Comune agisce in totale autonomia. Così. Certo, lei parlava di incentivi, c'è un tavolo aperto, e qui veniamo a una dimensione ovviamente nazionale, rispetto a tutto il discorso dell'incentivazione che dovrà caratterizzare anche il 2020. Intanto facciamo un passo indietro, come sono andati gli incentivi 2019, quelli che dovevano consentire il trasferimento verso la modalità elettrica? Beh, sono andati bene nel senso che sono stati spesi, poi l'incidenza reale sul mercato è sempre nell'ordine di grandezza dello 0, cioè hanno leggermente modificato il mix delle alimentazioni verso quelle a, diciamo, a basse emissioni, quindi non soltanto l'elettrico puro ma anche ibridi, ibridi plug-in, però è un segmento che complessivamente pesa ancora pochissimo. Noi abbiamo chiesto come un RAE in tutte le sedi istituzionali di aumentare di un ordine di grandezza questi incentivi per l'anno in corso e per gli anni a venire, ma accompagnandolo anche con altre misure, per esempio un'incentivazione seria dell'usato su usato, e lo diciamo non certo per interessi di bottega, perché non è il nostro mestiere vendere auto usate, ma se non si raggiungono certe fasce sociali che non hanno la possibilità di passare di investire nuovo, una cifra così importante per il problema, il nuovo, noi certo. Il problema delle emissioni con 14 milioni di vetture circolanti ante Euro 4 non lo risolveremo mai. Quindi usato su usato significa semplicemente già, come dire, salire di un gradino, quindi da Euro 4 a Euro 5. Io direi di due gradini, certo. Rottamare da Euro 0 a Euro 3 per salire su un Euro 5 o Euro 6 darebbe un boost incredibile allo svecchiamento del parco, invece è tutto completamente fermo. Bene, e noi ci auguriamo che invece qualcosa si muova su questo fronte, seguiremo ovviamente con grande attenzione anche l'evoluzione di questo dibattito, speriamo a questo punto nel cattivo tempo della prossima settimana, lo so che qualcuno storcerà il naso, però gli automobilisti invece ne saranno sicuramente contenti. Termina qui invece questa parte di Strade e Motori, la puntata di oggi di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite di oggi, Andrea Cardinali, direttore generale di Unrae. Strade e Motori torna come al solito sabato alle 22 circa. Un saluto. Facciamo la danza della pioggia. Faremo la danza della pioggia prima di andar via. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.